Ciao a tutti, sono Alan Marangoni, anche oggi la tappa è finita e adesso diamo la linea a Gironimo, diamogli la linea, cosa vi devo dire? Linea Gironimo! Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia, della pioggia, del vento e della birra, soprattutto della birra che non è mancata al buffet di questa giornata, al Giro d'Italia non sono mancate tante altre cose, non è mancata la fuga, non è mancata la pioggia, questo l'abbiamo detto, non sono mancate le scale, ne abbiamo fatte tante in questo quartier tappa su e giù e infatti ho un po' il fiatone nell'introdurre questa puntata che è la puntata numero qualcosa di Gironimo, il podcast di Al Vento dedicato al Giro d'Italia 2024 con le voci di Bidon, il supporto amorevole di Shimano, ma voci che non sono soltanto quelle di Bidon quest'oggi perché c'è una voce se non la voce di Al Vento, alla mia destra c'è l'uomo di casa, Mandy Alessandro Autieri. Buonasera a tutti, è stata la tappa della, come detto, della fuga, della pioggia, della birra, ma anche del vino che qua non manca mai. Mancava il frico. Volevo portarvi del frico, alla fine ho optato per una buonissima gubana che è stata preparata ieri mattina dalla signora, almeno così mi ha detto, e dopo la testeremo. Sbrighiamoci a registrare allora, questo podcast perché così, ci aspetta la gubana. Sì, ci muoviamo. La voce che sentite impaziente per la gubana è la voce di Leonardo Piccione. Eccomi qua, ciao a tutti, buonasera. E la voce altrettanto impaziente per la gubana, ma non voce, ma l'eroe del campanilismo italiano è Michele Pelacci. Non quel campanilismo inteso come fazioni in un piccolo paese, bensì, diciamo, altezze di campanili letterali. Bensì passione per i campanili, sì, perché sì. Noi questo podcast lo facciamo per parlare di campanili. E di funivie anche. Seggiovie, per la precisione. Bene, siamo partiti bene, non rallentiamo, andiamo subito a 1000 perché questa puntata durerà 2 ore e 45 minuti che saranno introdotte da 20 minuti di acrostico di Leonardo Piccione. No, l'acrostico in realtà è molto succinto perché siamo arrivati a Sappada che ha soltanto 7 lettere però ha 2 P che potevano essere, come dire... La doppia P che ho risolto... Purè di patate. No, io ho fatto così, vediamo se vi piace. Sornione Andrea precede Pelaio al Fiere delle Asturie. Ah. La Fiere delle Asturie è Pelaio Sanchez, non Vendrame, che è la fiere non è Asturia, di Conegliano Veneto. Dai cui pressi transita la tappa di domani, c'è un GPM a Cadel Poggio. Esatto, un GPM a Cadel Poggio. Non oso immaginare quale quantità di prosecco, di alcol ci sarà al passaggio di Vendrame domani, altro che birre e vini di Sappada. Esatto, lui ha già detto, che non attaccherà, però, o meglio, ha detto che conosce bene queste strade, che... magari farà qualcosa, si farà vedere, però l'obiettivo è quello di stare di fianco al capitano. Però io con la gamba di oggi, magari, insomma, con la gamba di oggi e con la bicicletta Van Riesel mi aspetto questo e altro di domani. Però veniamo al termine che conta, Alessandro Autieri, prosecco o ribolla? Ribolla gialla sicuramente, che abbiamo anche provato qua in sede qua su a Sappada, e sicuramente sempre ribolla gialla. Oggi, domani siamo in terre diverse, ci sarà un domani, sì, domani sicuramente per ma voi. Ma voi pensate la bellezza di vincere la tappa il giorno prima di passare da casa tua? Non lo so, è un'emozione che non riesco a immaginare, è quello che proverà Andrea Vendrame domani, ma prima di arrivare a domani rimaniamo sull'oggi. È un'emozione che cresce in me quando so quello che sta per arrivare. Stanno per arrivare le sillabe d'amore di Michele Pelacci che ci riassume così la tappa numero 19 del Giro d'Italia. Sotto il campanile più alto d'Italia molti corridori provano ad andare in fuga. Un primo gruppetto si avvantaggia, altri lo raggiungono, poi altri ancora, Insomma, la fuga di giornata è composta da parecchi corridori. Per la precisione. Esatto, ora arriviamo a un numero un po' più certo. Ma c'erano anche degli altri? Anche degli altri, anche certuni e qualunque. Valgren, Steinhauser e Honoré, ma anche De Marchi, Vendrame, Alaphilippe, Pelayo Sanchez, Tarozzi, Narváez, Stuyven, tra gli altri. In tutto una ventina di corridori, il cui vantaggio sul gruppo diventa presto rassicurante, ma attacchi e contrattacchi si susseguono. Sulla discesa di Sella Valcalda prende un piccolo vantaggio Andrea Vendrame. Il Veneto è inseguito soprattutto da Gergo Steinhauser e Pelayo Sanchez. In tutto, in gruppo, tutto più o meno tranquillo. Davanti, invece, resiste ad ogni tentativo di rimonta e a Sappada vince la sua seconda tappa al giro proprio lui, il Joker Vendramix. Sì, esatto, proprio lui ha vinto e... È bello. È molto bello e ha preceduto... Siamo contenti della vittoria di Vendrame, tanto che abbiamo aperto questa puntata con l'audio celebrativo della... con la voce del Maranga, che salutiamo, ma poi con l'audio celebrativo dei compagni... Sono compagni di squadra anche i massaggiatori, no? Cioè, sì. Sono sempre compagni di squadra. Ho registrato quelle voci sulla linea del traguardo, mentre i massaggiatori e gli addetti stampa della Decathlon attendevano l'arrivo. E alcuni altri, come direbbe Michele Pelacci. Attendevano proprio l'arrivo di Andrea Vendrame, che ha vinto quello che sembrava un torneo dei già vincitori di tappa del giro, no? C'erano Pelayo Sanchez, Steinhauser, Alaphilippe e Narváez, a un certo punto tutti già vincitori di tappa, e invece ce l'ha fatta colui che in questo giro ancora non aveva vinto una tappa. Ordine d'arrivo dunque: Andrea Vendrame su Pelayo Sanchez e Georg Steinhauser. Quarto Narváez, quinto Plap, sesto Velasco, settimo Tratnik, ottavo Valgren, nono Alaphilippe e decimo Hermans. Non vi ho detto i distacchi, che sono entro il minuto soltanto tra Vendrame e Pelayo Sanchez, quindi 54 secondi. Ha vinto nettamente Andrea Vendrame. Non vi dico tutti gli altri, arrivo al quattordicesimo, che è Alessandro De Marchi, che abbiamo visto tagliare il traguardo con una bandiera del Friuli, e il gruppo è arrivato a un quarto d'ora, 15 minuti e 56, regolato da Felix Grosschartner e poi tutti gli altri. In classifica generale non è successo nulla, forse, non so, in coda alla posta avete sentito qualcun altro vicino a voi dire che in maglia rosa c'è Tadej Pogačar e ha un vantaggio di 7 minuti e 42 su Dani Martinez. Terzo è Geraint Thomas, che oggi è caduto, non si è fatto nulla, ma ne parleremo più avanti, a 8 minuti e 04. Non vi dico il distacco dal quarto in poi: quarto è Ben O'Connor, quinto Antonio Tiberi, sesto Tymen Aresman, settimo Romain Bardet, ottavo Einer Rubio, nono Filippo Zana, decimo Jan Hirt. Vi do questa notizia: domani sera la classifica sarà definitiva, quindi ci manca solo un giorno per sapere la top 10 definitiva di questo Giro d'Italia. Leo, però io sento che né le mie sillabe d'amore né le tue classifiche raccontano fino in fondo quello che è stata questa tappa. Serve qualcosa, serve un... Sì, serve lanciarci nella parte di analisi dei temi, e non conosciamo modo migliore per farlo se non ascoltare Marta Bacicalupo, che estrae il suo tarocco, e quindi è il momento della giromanzia. Buona sorte o guai, luna nera sì o no, lo vedremo tra un po', con le carte che la zingara ti fa. Cari amici della giromanzia, bentornati nella tenda della vostra giromante di fiducia. Avete sentito questa risata che era un po' da Maria de Inquietudini Rosa? E invece no! Siamo tornati qui anche oggi, anche in Smart Worky, per leggere un po' la situazione della corsa. Incredibilmente, devo dire con anche grande gioia e grande soddisfazione, peschiamo l'arcano maggiore dell'imperatrice, un arcano molto significativo che significa dinamismo, creatività, intelligenza. Finalmente, a volte vogliono un po' dire tutti la stessa cosa, questo invece è molto particolare. armonia con il mondo su cui regna, perché ricordiamo che Vendramix, il Joker, il nostro vincitore, oggi ha vinto quasi in casa. Significa anche un solido attaccamento alla tradizione, ci ha raccontato di essere, mi definisco razza piave, quindi diciamo che è una carta che esprime grande potere, ma non è quel potere che impone la propria volontà, ma è il potere che sceglie il momento giusto, un potere che sfrutta le sue capacità per passare all'azione. Infatti il nostro Andrea Vendrame ha gestito lo sforzo, è rientrato in discesa e in discesa ha sferrato l'attacco che forse non tutti si aspettavano, addirittura è rimasto appunto un po', si era quasi staccato nella prima parte della tappa, e questo tarocco che ci porta l'abbondanza, il senso pratico, proprio l'ambizione, perché questa tappa lui se l'era segnata, ha anche un particolare risvolto per Steinhauser e poi anche appunto Pelaio, che non hanno accettato i tatticismi, quindi qua siamo sempre nell'aura della scaltrezza e dell'intelligenza dei due sfidanti, diciamo Julian Alaphilippe e Narváez, che forse erano ancora lì a guardare per la tappa di Napoli. Uno rapido sguardo alla carta ci mostra una donna molto saggia con dei lunghi capelli bianchi, appunto, che esprimono chiarezza delle idee, però ha un'aura diversa in questa sua saggezza dalla papessa, perché la papessa, come abbiamo già visto, ha un'autorevolezza spirituale, ad esempio quella di Poggi, che ha dimostrato fair play, mentre questo della imperatrice ha un potere concreto, è il potere di chi prende in mano le redini del suo destino e ha fiducia nel futuro, proprio come Andrea Vendrame. Un rapido sguardo ovviamente sempre anche al rovescio della carta, che in questo caso esprime un po' di superficialità, di nervosismo, addirittura la lettura dei tarocchi dice mancanza di conoscenza. Sarà questa quella che è stata imputata a mio amato Mr. G come una grave disattenzione? Vediamo come andrà domani. Saluti dalla giromanzia. Alessandra Autieri, lo sapevi che tutto, cioè quanto ci cervelliamo tutti quanti, e invece i tarocchi ci dicevano già tutto su questo Giro d'Italia? Sì, sì, assolutamente, infatti lo sapevi. Ho seguito con grandissima passione la giromanzia. Beh, come farai da dopodomani, quando finisce il giro? Tu dovrai continuare a scrivere per Al Vento, fare le newsletter, facciamo, queste sì, cose qua. Stavo proprio pensando di continuare a fare intanto la newsletter giornaliera tutti i giorni con sveglia alle 5 del mattino alle 5 del mattino tutti i giorni fino a fine stagione, quindi fino a, diciamo, non il Giro di Lombardia ma fino alla Japan Cup della settimana dopo. Bene, bene, torniamo a noi, torniamo ai risultati della giromanzia, ai risultati della tappa, con una fuga che ci aveva detto, spoiler come dicono i giovani tipo Pelacci, Tadej Pogacar giorni fa, che sarebbe arrivata la fuga, e oggi hanno fatto di tutto per far arrivare la fuga, e la fuga è arrivata. La fuga è arrivata, e ha detto Vendrame, è stato più difficile oggi prendere la fuga nelle fasi iniziali della tappa che poi vincere la tappa nel finale, che è una dichiarazione interessante, ma che però spiega bene quanto oggi tanti ci tenessero a entrare in questa fuga sapendo che c'erano buone possibilità di farcela. Bravissimo Vendrame, pensavo a un certo punto che stesse vincendo questa tappa con la scaltrezza, no? Con l'attacco in discesa mentre gli altri si guardavano, però poi l'ha vinta con le gambe, ce ne aveva di più, perché anche in salita verso Cima Sappada il suo vantaggio non è calato praticamente per niente, quindi oggi ha vinto perché è stato furbo, ma soprattutto perché ne aveva più degli altri. Non a caso gli altri erano corridori che si erano visti già molto durante il giro, mentre Vendrame si era visto poco finora, no? Era praticamente una fuga con dentro quasi tutti i migliori fuggitivi di questo giro, forse mancava giusto Conci, infatti quando ho visto Hermans speravo ci fosse dentro Conci, ma soprattutto prima di prendere Cima Sappada, che sono partiti Steinhauser e Pelayo Sanchez, abbiamo detto quello sarà la chiave, i primi tornanti, le prime pendenze di Cima Sappada, e proprio in quel momento, quando abbiamo visto che il vantaggio non calava, ma soprattutto che la pedalata di Vendrame sembrava molto più efficace rispetto a quella dei suoi due inseguitori, abbiamo capito lì che era fatta. Vendrame è uno che, quando, come era già successo anche a San Martino di Castrozza, dove non vinse nel 2019 al Giro d'Italia, che vinse Chaves, lui ci fu un salto di catena, probabilmente non avrebbe vinto lo stesso, però nonostante le sue caratteristiche di corridore, diciamo, non proprio scalatore, però è un corridore che quando va in fuga, anche se è una tappa di media montagna come quella di oggi, difficilmente sbaglia, anche se poi non ha vinto tantissimo in carriera, però questa è stata veramente una gran bella vittoria, perché contro avversari di grande spessore a questo giro, forse appunto i più in forma tra i fuggitivi. Una cosa va detta, analizzando la tappa che dicevi tu, Ale, che io non ricordavo, per cui grazie di questo contributo da capisher quale sei. Quella tappa... Da che? Da persona che ne capisce di ciclismo, capisher. quella tappa aveva oltre 3.000 metri di dislivello, questa aveva oltre 3.000, la precedente, quando vinse Bagni di Romagna, oltre 3.000. Forse è semplicemente un corridore più resistente e meno veloce di ciò che si pensa di solito. Questa bella vittoria di Andrea Vendrame oggi è la seconda in questo giro per una Decathlon sugli scudi. Avevano già vinto con Valentin Paré-Peintre. Michele, vuoi dire qualcosa su questa squadra che ti sta entusiasmando in questo giro? Entusiasmando abbastanza. Prima vittoria della GTZR senza Kautz in ammiraglia, va detto. Ci ha scritto Michele Moretti sul gruppo Telegram per dire che Vendrame è il primo AG2R che vince più di una tappa al giro con la squadra francese, ed è la prima volta in assoluto che la AG2R vince due tappe in un singolo giro. Squadra che ha già 22 vittorie quest'anno, pensa che sommando le vittorie del 23 e del 22, quindi dei due anni precedenti, ne ottennero 20. L'anno recente in cui ne vinsero di più fu nel 2015. Quando in squadra c'era ancora Domenico Pozzovivo. Era lui che aveva portato tutte queste vittorie. No, ci tenevo a dire che sul discorso ammiraglia, niente, abbiamo fatto il briefing stamattina, abbiamo deciso che ci si divideva i ruoli, ho detto vabbè, io oggi vado col podcast, fate voi, però la strategia era stata stabilita, per cui mi posso prendere alcuni meriti. Ma chiuderei la parentesi dovuta e necessaria legata alla Decathlon, perché devo porre una domanda ad Alessandro, a voi due l'ho già posta. Alessandro, tu hai un sogno da realizzare in metallo nella tua vita? Perché c'è un'azienda tedesca che ormai è lo sponsor non ufficiale di questo podcast, che realizza sogni in metallo. E comunque aspettiamo il bonifico, eh. Facciamo così, lasciamo 5 minuti di silenzio in questo podcast, così ci puoi pensare. Così proprio di botto non mi viene in mente niente, però mi piacerebbe che Steinhauser diventasse un grande corridore da grandi classiche, mi piace proprio. Ah, da classiche vorrei. Sì, perché lui chiaramente, molto probabilmente, lo vorranno far diventare un corridore da corsa a tappe, però poi... Cosa succede? Quando diventano corridori da corsa a tappe iniziano un po' a perdere quello smalto, quella brillantezza, quell'andare in fuga, che io adoro, io amo le fughe nei grandi giri, e invece mi piacerebbe che lui continuasse a fare questi attacchi, oppure a giocarsi le classiche vallonate, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro di Lombardia, sono corse adattissime a lui. Questo è il mio sogno in metallo. Anche perché, non so se è un sogno metallo, ma diamo a Cesare quel che è di Cesare e a Ale Autieri quel che è di Ale Autieri. È un po' lo scopritore di Georg Steinhauser, perché ne scrive con costanza da tempo, da prima ancora del Giro d'Italia. Non so se è lo scopritore, visto che suo padre era un ciclista, l'avrà scoperto lui in sala parto, però anche Ale Autieri ci ha messo del suo. Io invece oggi avevo un sogno in metallo, che era vedere Georg Steinhauser salire sul podio delle premiazioni, perché il podio era piazzato esattamente sotto un hotel che si chiama Hotel Corona Ferrea. È salito chiunque su quel palco, ma non Steinhauser. Ma perché, mi chiedevo, Stein sarà ferro e Hauser casa di ferro. Sì, non lo so. Per cui no, corona di ferro e casa di ferro. Non lo so se questa è la traduzione corretta. No, vi segnalo comunque, tra le tante persone salite su quel palco c'era Emanuele Tarozzi, che era in fuga oggi ed è arrivato undicesimo, credo, che è stato premiato perché ha vinto l'Intergiro. Ora, parliamo 2 secondi dell'Intergiro, perché... Ma parliamone 25 minuti dell'Intergiro, no, perché secondi. Dedicargli solo 2 secondi? No, perché... Siamo qua per campanili e Intergiro. No, perché Tarozzi era in fuga, ha voluto vincere l'Intergiro, perché il leader della classifica Intergiro è un suo compagno di squadra della Bardiani, cioè Filippo Fiorelli, e ha voluto togliere dei punti ad Alaphilippe, che era in fuga oggi, che se avesse vinto l'Intergiro avrebbe minacciato la leadership di Fiorelli nella classifica. Vabbè, è un giro molto tattico, l'abbiamo detto da inizio giro, ci sono classifiche minori che sono state assegnate, tipo quella lì di Pogacar, non mi ricordo più qual è quella che conduce, ma sulle classifiche che contano è un giro ancora un po' bloccato dalla tattica, però un po' bloccato dalla tattica, no? Vogliamo dirlo? Diciamolo. Ma passiamo comunque adesso a sentire Georg Steinhauser, che ho come sempre incontrato dopo la linea d'arrivo, ormai lui sa che lo aspetto, e ha detto per prima cosa che l'obiettivo di oggi era tirare per Valgren. La Education First oggi lavorava, l'obiettivo era fare la tappa con Valgren, e si è ritrovato a un certo punto in fuga insieme anche a Honoré, oltre a Valgren. Sentirete adesso questa breve intervista. A un certo punto arriva proprio Valgren e che si congratula con Steinhauser e gli chiede il risultato della tappa, perché Valgren quando è arrivato non sapeva il risultato, ma poi vi traduco tutto dopo il contributo. Before the Giro I would never dream of this, you know. But now it's just becoming reality, and I had now three really good performances, and it's crazy. Oh, Michael, man. Sorry. I'm too fat for this year. It's too heavy. Good try. I was third. Great. Okay. It was nice. It was a good try. The other guys were just stronger. Nothing to do. Do you think you lacked more legs or just experience today? To be honest, I think I lack legs. I think, I don't know, on a day like this, of course there's experience counts, but in the end it's all down for the legs. It's a super hard stage, and we raced it like super hard, you know? So I think I just lack the legs. Do you have the feeling that the more experienced riders in the breakaway were counting on you to pull more than them, because you were the youngest and the strongest probably? I mean, I could notice that they know that I won the stage a few days ago, and that they know that I have good legs or strong legs, but yeah, I noticed this definitely, but I don't think they say because I'm younger I need to pull. It was just because of the days before. Tomorrow again or some rest? I don't know yet. Let's see how the night is and how the legs feel tomorrow. Congratulations again. Thank you. Allora, prima del giro, anzi Ciro, come dice Steinhauser, non avrei mai sognato una cosa del genere, ma adesso sta diventando realtà. Ho messo insieme tre ottime prestazioni ed è incredibile. E questo è il punto dell'incontro, in cui arriva Valgren, gli dice I'm sorry, perché probabilmente voleva essere più di aiuto, poi gli chiede che il risultato della tappa, e Steinhauser gli dice sono arrivato terzo, ma va bene, gli altri erano più forti, non c'era niente da fare. Poi ho ricominciato l'intervista e ho chiesto a Georg, pensi che ti siano mancate di più le gambe o un po' di esperienza oggi? E lui ha risposto, onestamente penso le gambe. In giornate come questa ovviamente conta l'esperienza, ma alla fine è più questione di gambe. È stata una tappa dura e l'abbiamo corsa al massimo, quindi sì, penso che mi mancassero più le gambe. Io gli ho chiesto, ritieni che i corridori più esperti nella fuga, mi riferivo ad Alaphilippe soprattutto, ma anche a Narváez, contassero su di te per farti tirare di più in testa alla fuga in quanto corridore più giovane e anche più forte probabilmente della fuga? E lui ha detto, in effetti ho notato che loro consideravano il fatto che io avessi già vinto una tappa qualche giorno fa, sapevano che ho delle buone gambe, quindi questo sicuramente l'ho notato, non credo invece che c'entrasse il fatto che fossi il più giovane, solo c'entrava che ho dimostrato molto nei giorni scorsi. E infine gli ho chiesto, quindi domani ancora all'attacco o ti riposi un po'? Lui si è messo a ridere e ha detto, non lo so ancora, vediamo come va la notte e come sentirò le gambe domani mattina. E poi congratulazioni di rito e ci siamo salutati, appuntamento chissà forse a domani o forse all'anno prossimo. Bene, bene, l'anno prossimo sicuramente sarà dei nostri anche... All'anno di Steinhauser. Ma sì, perché no? Michele, ma tu sai da dove si prende il traghetto per andare all'isola d'Elba? Da Piombino, per rimanere in tema, no? Certo, e se arriva a Portoferraio tutto torna. Ma lanciamo l'intervista successiva, che è meglio. A Simone Velasco. Ma io oggi ho fatto il mio. Ero dentro dalla prima fuga di giornata e dopo sono riuscito a rientrare in quella decisiva. L'unico rimpianto è non essermi agganciato sul passo Duron al gruppetto davanti a me, che era i 20 secondi davanti a me, però vabbè dai, questo è il ciclismo, l'importante è portarsi dietro sensazioni positive. Tante volte ci vogliono gambe e fortuna, e a inizio giro non abbiamo avuto gambe e a fine giro non abbiamo avuto fortuna, quindi dai, guardiamo l'aspetto positivo e avanti con le prossime. Simone, sei arrivato comunque molto arrabbiato. C'è più soddisfazione o più rabbia alla fine di questa tappa? Ma sicuramente era l'ultima occasione per me per poter far bene, e tutto il giro che rincorro la condizione, purtroppo a causa dei malesseri della prima settimana e degli antibiotici, avrei voluto chiudere in bellezza, però comunque sono contento che abbia vinto un amico, ha vinto Vendrame, quindi dai, sono contento, complimenti al vincitore. Com'è la tua amicizia con Vendrame? Ma abbiamo corso insieme da dilettanti, tanti anni che ci conosciamo, quindi dai, sono contento, è sempre bello quando vince un italiano il giro e bene così. Cosa gli dirai se lo senti? Ah, gli farò i complimenti e gli dirò che la prossima volta vinco io. In bocca al lupo. Bene, quindi Simone Velasco oggi è arrivato sesto, ma la prossima volta vincerà, almeno se torna in fuga con Andrea Vendrame e se tutto questo progetto andrà in porto. Non ci scommettiamo in questo momento, nel senso non lo possiamo sapere. Quello che possiamo sapere è che il più delle volte, quando noi andiamo a parlare con dei corridori, cioè, per anni portavamo una sfiga micidiale. Quest'anno, quando noi andiamo a parlare con dei corridori, in un qualche modo gli portiamo bene, si comportano bene, sono motivati. Pensa che questa mattina io ero lì che aspettavo un corridore, è arrivato, ho fatto l'intervista, dopo la sentite, e nel frattempo è passato Quinten Hermans, io dovevo intervistare anche Quinten Hermans e non sono riuscito perché ero già impegnato con un'altra intervista, ma anche solo la mia presenza, il mio desiderio di intervistarlo l'ha mandato in fuga. Ma più di tutti è successo con un corridore che inevitabilmente non poteva che essere intervistato da Michele Pelacci, che è andato in fuga quest'oggi, ed è Pelayo Sanchez. E quindi andiamo ad ascoltare l'incontro inevitabile, scritto nelle stelle o nei tarocchi, tra Pela Pelacci e Pela Pelayo Sanchez. Pelayo, ciao, grazie del tuo tempo. First of all, how are you? Como estás? Well, I'm very happy. The Giro is close to an end, so we are happy and we will try with our last power to do a good final. I was listening to and reading Spanish journalists who said you're a very smart rider. What do you think? Well, I don't think so. I just try to do my best. Sometimes I don't have the legs, so I need to hide and to ride smarter, I guess. So, well, we have like two stages good for me, so I will try to win another stage if it's possible. Per prima cosa gli ho chiesto: Pelayo, ciao, come stai? Domanda molto generica a cui lui ha risposto: sono molto felice, il giro è vicino alla fine e con le ultime forze rimaste proveremo a finire in bellezza. Gli dico che ho letto e sentito giornalisti spagnoli che lo reputano un corridore molto intelligente. Che ne pensa? Pelayo non crede di essere più furbo di altri colleghi, semplicemente prova a fare del suo meglio. A volte ho solo bisogno di nascondermi un po', e questo sì, forse è correre in modo intelligente. Proverò a vincere un'altra tappa. Poi gli ho chiesto se si sente parte, diciamo, di una tradizione di ciclisti spagnoli, veloci ma resistenti, sulla scia dei vari Jesús Herrada, dei fratelli Izaguirre e così via. Sentiamo cosa ha risposto. I don't know, time will say what kind of rider I am, but yeah, I really like the punch finals, also the climbs, you know, this profile like a stage hunter, so well, we will see what can I achieve in the future. Is Pelayo a common name in Asturias? Yeah, in Asturias, yeah, of course, only in the, it's a traditional name in the north of Spain, the name of the fair skin of Spain, so yeah, it's kind of a traditional name there. Great, so I'm just asking this because I'm Pelacci as a surname, you're Pelayo, so two Pelas had to talk at this Giro. Thank you, thanks a lot, grazie. Col tempo, dice Pelayo, vedremo che corridore sono. Mi piacciono molto i finali da puncher, anche le salite. Tutte quelle tappe da cacciatore di tappe, insomma. Vedremo cosa riuscirò a vincere in futuro. Cambiando argomento, poi gli ho chiesto se Pelayo è un nome comune nelle Asturie, o meno, e lui mi ha detto di sì. In tutto il nord della Spagna è piuttosto comune, e anche il primo re spagnolo si chiamava così. Informazione che io non ho verificato, ma mi fido, insomma, di Pelayo. Infine gli ho spiegato, Filippo, non ridere, tu sei esperto di Spagna. Non sapevo il nome del primo re spagnolo, okay. Ma se dovessi scegliere tra la fonte Pelayo Sanchez e la fonte Michele Pelacci, sceglierei Pelayo. Sono d'accordo. Infine gli ho spiegato il perché gli ho fatto questa domanda. Cioè, perché anch'io sono un Pela qualcosa, e quindi c'è qualcosa, seppur piccolo e insignificante, che ci accomuna. Lui si è messo a ridere, ci siamo salutati, diciamo che questa intervista gli ha portato bene, appunto perché oggi è andato molto forte. E poi all'arrivo invece c'era un collega a fianco a Pelaio, un collega particolare. Tu l'hai cercato sia al mattino che al pomeriggio. Esatto, perché ormai domani, gira qualcosa. Domani ci sarà un servizio d'ordine che ti tiene lontano da Pelaio Sanchez. Questo collega particolare però, che era già piombato su Pelaio, era niente meno che Alberto Contador. Al che io ho pensato, qua mi sa che la domanda la farò per secondo, mi sa così a naso. E invece l'hai fatta per primo. No. Ah, ok. Cominciamo però sentendo la risposta alla domanda di Contador, che chiede a Pelaio un sunto della tappa e un sunto del suo Giro d'Italia. Sì, bueno, a ver, al final el primer tiro salió bien, fue gol. Y bueno, luego el resto de la carrera pues seguimos intentando buscar puerta, pero pues la verdad que hoy con menos fortuna, un segundo puesto que bueno, que sabe poco por el trabajazo que hicieron los compañeros, pero bueno, hay que estar contento porque Vendrame pues hizo un carrerón y se merece la victoria, fue el más fuerte. Do you surprise yourself today? Like medium mountain stage, third week of the Giro, you did so strong. Well, I'm happy with the whole Giro, the performance. In medium stage of mountains, I performed well. Also in a parkour like a classic, the stage I won. And then today, like a mountain stage, I performed also well. So I must be happy with the whole Giro and try to keep doing like this. I feel like Italian fans are starting to love you because you left all of you on the road, all El Corazon on the road. Is it a thing you do often or just... Is it something special about this Giro? No, well, I like to arrive empty to the finish line, and my idol El Tarangu, which was from Asturias, he did great performance here in El Giro, so I'm really motivated to try to do something similar to him, and that's why I always left all on the road. Thank you, Pelaio. Thank you. Pelaio risponde con un paragone calcistico. Ricordiamo che lui è un grande fan del Real Oviedo. Il primo tiro, dice Pelaio, è andato bene. Ho fatto gol. Per il resto del giro abbiamo cercato la porta, ma in verità oggi, con poca fortuna, siamo riusciti a fare un secondo posto, che dice un po' poco del lavorone che hanno fatto i miei compagni di squadra. Bisogna comunque essere felici perché Vendrame ha fatto una gran corsa e si merita la vittoria. È stato il più forte. Poi io gli ho chiesto se anche oggi si è sorpreso o meno della sua prestazione, perché è andato così bene in una tappa di media montagna e nella terza settimana. Pelaio ha risposto: sono molto contento del mio giro. Sto andando bene sia in tappe di montagna che su percorsi da classiche, come la tappa che ho già vinto. So che devo continuare così. Infine gli ho detto, insomma, che anche i fan italiani stanno iniziando ad appassionarsi al suo modo di correre, al cuore che sembra gettare in strada ad ogni tappa. E Pelaio mi ha detto che gli piace arrivare vuoto sul traguardo, svuotato da tutta la fatica che ha fatto. Poi aggiunge che il suo idolo, El Tarangu, asturiano come lui, era uno che andava fortissimo al Giro d'Italia, per cui Pelaio... Tarangu sarebbe? Adesso ci arrivo. Ah, ci arrivi. Adesso ci arrivo. Per cui Pelaio è molto motivato a fare qualcosa di grande come lui e anche per questo dà tutto ciò che ha. Quindi arriva al Tarangu, perché non è detto che tutti i nostri ascoltatori conoscano come te i soprannomi del ciclismo. Perché giustamente io lì per lì non avevo capito cosa avesse detto. È il Taramu. Avevo capito io, per cui vado da Adrià, il suo detto stampa, e gli dico: Adrià, ma sto Tarangu, ma chi è? E lui mi fa: boh, non ascoltavo. E poi vado da Kautz, che è un decano del ciclismo, e gli dico: Kautz, ma sto Tarangu, ma chi è? E poi mi ha detto: ma ascolta, dimmi di più. E gli ho detto: vabbè, asturiano, è un ciclista spagnolo. E lui fa: ah, vabbè, sarà El Tarangu, ovvero José Manuel Fonte. Fuente, ecco. Vabbè, l'hai tradotto in italiano, cioè, Giuseppe Emanuele Fonte. Non ce la posso fare, so dirti però che per 4 anni consecutivi, nei primi anni 70, ha vinto la classifica scalatori al giro. Non è che sai dirmelo, stai leggendo Wikipedia. Potrebbe, ma ora Alessandro Autieri vi parla per mezz'ora di José Manuel Fuente. Bah, questo sarà un contenuto speciale che rilasceremo nel mese di novembre. Nel frattempo passiamo agli uomini di classifica. Sì, passiamo agli uomini di classifica. Non c'è molto da dire, abbiamo detto sono arrivati con quasi 16 minuti di ritardo. Però è successa una cosa, un errore, una stupidata, ha detto lui, commessa da Un corridore che domani compie 38 anni, abbiamo appena parlato di due ventenni, Pelayo del 2000, Steinhauser del 2001, Geraint Thomas. Pure Pelacci non è che ci andava lontano. Però è più grande di questi due, il nostro studente qui, e invece Geraint Thomas, ripeto, domani 38 anni, si è guardato a un certo punto un po' troppo intorno o indietro, non ha visto che davanti aveva la ruota di un altro corridore, Tiberi, e l'ha presa ed è caduto. Per fortuna sembra che non si sia fatto nulla. Insomma, colpisce che un corridore della sua esperienza alla terz'ultima tappa di un grande giro possa mettere a repentaglio un risultato che è lì, no, il podio a due passi, con un errore di questo tipo. Ma succede. Poi stavano andando pianino gli uomini di classifica oggi, quindi magari, diciamo, l'attenzione era un po' calata. Sì, poi diciamo che le cadute di Thomas sono sempre, cioè succedono anche queste, sono un elemento che ci ha accompagnato nella storia delle grandi corse a tappe. Non c'è l'ipotesi che sia successa perché lui stava cercando un regalo di compleanno, Ale? Oppure no, non lo so. Aspetta, abbiamo un collegamento dal Giappone. La parola del giorno. 今日の一言. Caduta. Coronda. Coronda. Cioè, mi sa che ci ascolta in diretta addirittura. Cioè, mi si è acceso il lampeggiante che diceva collegamento e stavamo parlando di caduta ed è arrivato così. Il sensei non gli sfugge nulla. Nulla. Io invito comunque te, grande diciamo ricettore degli insegnamenti del sensei. Ti ringrazio. Anche il miglior complimento che abbia mai ricevuto. Dimmi tutto. Un piacere. A passare il microfono a Lautieri, perché mettiamo lui alla prova prima di me magari. Ah, oggi. Così? Sì, così. Va bene, proviamo. Interrogalo tu. Allora, non sono sicuro di aver ascoltato, ma mi sembra che... sembra... Colonda? Colonda? Buona, sì. Adesso ti ergi addirittura a ruolo di maestro. Entrambi promossi oggi. Entrambi promossi, va bene, entrambi promossi, promossi tutti. Siamo verso la fine del giro, ci possiamo rilassare, ormai la classifica è chiusa, abbiamo assegnato la maglia rosa, il trofeo senza fine, il trofeo con la fine, il trofeo a mezza fine, siamo tutti belli rilassati e possiamo promuovere tutti. Guarda, oggi promuoviamo pure Tadej Pogacar, no? Sì, abbiamo detto, no, già del suo cambio di umore, con tutti si comporta meglio, tranne che con un giornalista al quale continua a rispondere in modo abbastanza curioso. Oggi c'è stata una domanda da parte di Cristiano Gatti, lo diciamo, sì, di Tutto Bici. Insomma, gli ha chiesto... Che viene Tadej... ingiustamente vessato da Tadej Pogacar. Oggi è stato divertente però, perché ha chiesto: Tadej, che tappa stai preparando domani? E Pogacar ha risposto: no, in realtà la tappa l'hanno già preparata da molti mesi, io non devo preparare proprio nulla, devo solo correrla. Secondo me, sai perché ha risposto così in modo... Io ho una mia teoria. Vediamo se coincide. Secondo me l'errore del giornalista è stato che avrebbe dovuto chiedere a Pogacar, essendo giovane, che tipo di tappa stai cucinando. Bravissimo, domani, esattamente ecco, quello che pensavo io. Se l'avesse chiesto Pelacci avrei detto che tappa stai cucinando o che tappa stai planando per domani, ma però comunque ha detto che vince. Cioè, sì, non l'ha detto in questi termini, ma si è abbastanza intuito. Ci ha girato un po' intorno, ma ha detto che vince, ha detto anche che gli fa piacere comunque tutta questa attenzione, tutta questa pressione. Non ne siamo convintissimi, almeno non ne siamo stati convintissimi per buona parte del giro, adesso sì. Lo vediamo anche sempre più spesso firmare autografi, trattenersi con i tifosi. Gli fa molto piacere, lui dice che si gode questo momento perché magari tra qualche anno si saranno tutti dimenticati di me. E io potrò stare in pace, ha detto. E lui potrà stare in pace, magari sì, non lo so. Io per dire non mi sono ancora dimenticato di Jalabert o di Konishev, che hanno vinto decisamente meno di Pogacar, per cui non credo che tra qualche anno mi sarò dimenticato di Pogacar, però magari non si riferiva a noi e si riferiva... Non è la prima volta in questo giro che tira fuori questo argomento del suo possibile ritiro in un futuro non determinato ancora. ci si ricorda, rimanendo in tema, rimanendo per citare di nuovo l'hotel Corona Ferrea, era l'hotel dove Michele, tu mi dicevi, alloggiò la carriera, la squadra di Roche e Visentini nel 1987. Roche insieme a Merckx sono i due soli corridori nella storia del ciclismo che hanno vinto nello stesso anno, capaci di vincere nello stesso anno Giro, Tour e Mondiale. Stiamo parlando di Tadej Pogacar. Può essere un anno buono per eguagliare questi due? Chissà. Potrebbe. Io ovviamente, siccome c'è un tema ciclistico, l'ho scansato in pieno. E... Però sì. Dimmi, rispondimi a questa domanda. Secondo te è un caso che Merckx non abbia più vinto Giro, Tour e Mondiale dopo il suo ritiro? Ma credo sia un caso, sì. Sì, credo sia un caso. Ah, tu credi che sia un caso? Non c'entrano i poteri forti? No. Allora sentiamo cosa avevi da dire. Che... Gli ho chiesto cosa stesse mangiando, da una parte, e dall'altra, siccome ha fatto tutto il Giro d'Italia a mettere canzoni interessanti, tipo anche Fabri Fibra, fenomeno di Fabri Fibra, gli piace anche molto. Toto Cutugno ha messo una... Toto Cutugno, insomma, una gran playlist. Cosa stesse ascoltando negli ultimi giorni? E dalla versante musica mi ha risposto hip hop sloveno. Io non sono esperto, non so. No, ecco. Nessuno dei presenti. Domani invece sarà, diciamo, a motore a pieno regime perché mangiava caramelline, zuccheri veloci, ha detto. Per cui domani avrà tantissime energie per vincere la tappa del Monte Grappa. E forse anche per ballare, musica che è l'hip hop sloveno, ma che è anche tutto il resto che ascolta Tadej Pogacar, ma io non mi avventuro in questi temi intimi di Tadej Pogacar perché c'è chi lo fa per noi ed è Marta Bacigalupo con il suo Pogaciario. Siete pronti a pogare? Poga, poga, pogare? Geronimo listeners, ma soprattutto studenti dell'almanacco del Pogaciario, eccoci oggi in un giorno di semi-tranquillità a interrogarci su quello che è sicuramente un argomento legato al tempo libero del nostro campione in rosa, perché forse a fare le analisi stamattina dal medico di famiglia vi hanno raccontato che Tadej Pogacar ha la maglia rosa. Parliamo dei suoi gusti musicali. Avete sentito in apertura e forse state ancora un po' scombussolati nelle vostre cuffiette, nelle vostre autoradio da questo Gigi Dag dannata, ma come vi avevo accennato, questo è il sound che sprigiona il bus della UAE alle partenze. Ho fatto proprio l'esercizio, indagando tra le mie fonti, di mettere in fila, quindi quasi creare una playlist con tutte le canzoni che ha condiviso Tadej sui social durante questo giro. Questo è un argomento di cui si è parlato abbastanza, anche tra giornalisti, il Pelamiti ha fatto diverse domande, tanto che oggi, all'ennesima appunto richiesta in conferenza stampa su che cosa avrebbe ascoltato Tadej prima di domani, lui ha detto che ascolta, cioè, moltissimo hip hop sloveno. Ok, ma non solo, perché il quadro da B-Boy, e anche qui Pelacci non saprà di che cosa sto parlando, è ben chiaro, nel senso che siamo sempre su una coerenza hip-hop, R&B, ma anche un po' trap, però appunto abbiamo proprio una dicotomia, una doppia anima scorrendo questi pezzi, perché abbiamo un filone più classico, quindi cultura dell'hip hop, quindi grandi classici, Tupac, Eminem, Snoop Dogg, Notorious B.I.G., fino a cose molto più contemporanee, DJ Shadow, Caldo Active, ma soprattutto ciò di cui si è parlato un sacco, Tony F., volevo fare il boss, Fibra, fenomeno, ma anche Fibra insieme ad Emma in Italia, sino a appunto Baby Gang. Siamo addirittura a Baby Gang che probabilmente è una chiara definizione di quello che è la UAE in questo momento. E quindi diciamo che appunto abbiamo un quadro abbastanza delineato di quelli che sono i suoi gusti, ma appunto abbiamo chiesto a chi rappresenta l'elemento adulto su quel bus, che quindi subisce la colonna sonora di Tadej, cosa ne pensa. È il nostro Marco Marcato, ascoltiamo cosa ci ha detto. Vi do appuntamento a domani per il penultimo Pogacciario. A volte sì, quando non sempre, però quando magari ha la giornata particolare, che ha la vena giusta, mette su queste musiche e i ragazzi apprezzano, vedo, insomma, noi un po' meno, però insomma, è così. Te lo dice Franco, che è sempre Franco. Ciao follower, bentrovati al nostro angolo di Franco in compagnia del vostro Franco. Chi è questo Franco? Signori, questa voce è quella di Franco, cioè io. Forza Franco! In questi giorni mi avete subissato di messaggi a valanga su tutti i miei canali social. Tutti a chiedermi, Franco, ho tanta voglia di pizza ma mangio sempre hamburger. Come mai? E allora volete la risposta? Venite da me all'angolo di Franco a chiedermi la risposta. Volete conoscere questa risposta? Ve la do. Ma prendete i fazzoletti, perché ancora una volta Franco si dimostrerà Franco. Non fa sconti a nessuno. Grazie Franco. La risposta è: non ne avete voglia. E questa è l'amara verità. La pizza è faticosa. La devi tagliare a spicchi, poi mangiarla con le vostre mani. L'hamburger lo mangiate subito. La verità è una: siete pigri. Hai detto pigri? Sì, avete sentito bene. Ho detto pigri. Parliamo di pigrizia, quella cosa. Ed ecco, caro follower, la tua motivazione del giorno. Seguo sempre i consigli di Franco. Di adesso, a te stesso. Io non sono pigro come la maggior parte della gente pigra. No, non sono pigra. Io posso cambiare il mio destino domani. No, adesso. Io mangerò la pizza nonostante mi secchi tagliarla. Costi quel che costi. Costi quel che costi. Bene. Sono davvero emozionato e sudato per avervi aiutato a risolvere anche questo problema una volta per tutte. Ehi, capirei se voi diceste grazie Franco. Grazie Franco! Di niente. Vi do appuntamento al prossimo podcast. Quando? Ehi, non vi preoccupate. È l'angolo di Franco e sarò sempre il vostro Franco. Franco è veramente Franco. Non vi preoccupate. Franco sta per tornare! Aleutieri, tu sei uno dei follower di Franco. Mi ha convinto. Ma tu lo seguivi già da prima? Sei un follower di vecchia data. Lo seguivo già da prima e stasera per l'ennesima volta mi ha convinto. Quindi, nonostante l'abbondante buffet fatto anche poco fa, il Franco buffet, un buffet che è stato Franco. Franco buffet. Direi pizza stasera tornando giù. Pizza, tu dici pizza. Tra l'altro Franco dice questa cosa che la pizza si taglia in spicchi e non conosce Michele Pelacci, che invece prende la pizza, praticamente la piega in due e la mangia per intero. Successo anche ieri sera, ottima pizzeria, lo ricordiamo, al solito posto di Concordia Sagittaria, grazie alla grande indicazione, segnalazione e ospitalità del nostro amico Robert Spinazzè. Però anche lì ti ho visto piegare, cioè tu la pizza la pieghi, com'è la tua strategia nel mangio pizza? Unico modo ufficiale per mangiarla, va tagliata in quattro parti, no otto, no sei, quattro. Tra l'altro ho visto la foto e poi mi sono dimenticato di chiedere a Leonardo, mi incuriosiva il gusto della pizza di Leonardo. Erano peperoncini verdi agrodolci, quindi piccanti, ma no, molto buoni, davvero una pizza super. Una delle migliori di questo giro, ne abbiamo mangiate tante di pizza. Abbiamo mangiate tante, anche ottima compagnia, scusate la divagazione, ma vale la pena parlare anche di alimentazione in questo podcast, che comunque è un podcast, noi ci teniamo sempre a ricordarlo dall'inizio di questo Giro d'Italia. C'è l'Intergiro, c'è il GPM, c'è il premio fuga assicurazioni Staraboom, c'è la classifica squadre, c'è il super combattivo, ma c'è una sola classifica che noi seguiamo, che è la classifica dei campanili più alti d'Italia. E oggi Michele Pelacci è andato a indagare le scomode verità su questo argomento. Ve le facciamo sentire. vi facciamo sentire questo, che è quello che abbiamo scoperto in partenza di questa tappa, ma poi siamo andati anche in un altro luogo molto particolare del percorso di tappa di quest'oggi, che è un biatlodromo, come possiamo definirlo? Una biathlon arena o poligono di tiro. Aleutieri è mega esperto di biathlon, quindi ci dirà tutto, e questa zona, per cui... No, mega esperto no, sono appassionato, dai, facciamo così. Al mega esperto l'abbiamo incontrato, per cui esatto. Ale, sentiti libero e vi facciamo ascoltare questo lungo, in questo momento prendetevi un bel respiro dalle nostre voci e sentite un lungo approfondimento su quello che è successo nella nostra giornata friulana. Ci dica un solo saluto, dove siamo? Siamo a Mortegliano, dove parte l'ultima la terz'ultima tappa del Giro d'Italia. Live da Mortegliano, il campanile più alto d'Italia. Nel centro di Mortegliano, un addetto alla sicurezza, il signor Claudio, io giravo attorno al campanile della chiesa, mi ha portato fino a casa del Monsignor Giuseppe Faidutti, nativo di Mortegliano, classe 1938, Monsignore, diciamo, parroco di Mortegliano, che è il titolo di Monsignore per la questione del Duomo, e dal 1996 ad oggi. Ora guardavo, è tutto recintato, diciamo, perché è una grandinata grossa a... Dica lei. Esattamente, diciamo, lo scorso anno, 24 luglio, è successo in un quarto d'ora il disastro, tutti i tetti distrutti. Il problema più grosso è certamente quello del Duomo, che ha altezze infinite, e che quindi dovremmo rivedere anche il tipo di copertura, perché altrimenti, diciamo, ritorniamo sempre da capo. E ha un'estensione, diciamo, piano terra di 1260 metri quadrati, quindi in altezza ancora di più. E direi siamo contenti, perché questo giro indubbiamente fa conoscere meglio Mortegliano, che tra l'altro ha il campanile più alto d'Italia, 113 metri e 20. Ecco, struttura, diciamo, moderna, perché nel 59 appunto abbiamo fatto il 50esimo e poco tempo fa abbiamo fatto il centenario del Duomo, che è stato inaugurato nel 1920, quindi... Ma immagino che lei è stato molte volte in cima al campanile, vero? Sì, adesso no, perché la mia età non me lo permette, va bene, sono stato tantissime volte, anzi quando ero più giovane sono stato mentre si stava costruendo... Quindi, insomma, lo conosco bene. Sono 330 gradini. Posso chiederle, lei che è stato in cima tante volte, cosa si vede da lassù? Da lassù, quando soprattutto è un tempo pulito, bello, si vede il mare, sia, diciamo, da Trieste quasi fino a Venezia. Ecco, comunque il nostro mare qui vicino si vede benissimo, insomma, ecco. E le montagne anche, verso... Le montagne e tutte le montagne, perché a 360 gradi vedi praticamente tutto il Friuli. Oggi il Giro d'Italia finirà verso Sappada, ma se fosse una salita, il campanile, sarebbe un gran premio della montagna? Alto, immagino. Anche mi pare che quando è stata l'inaugurazione ho dovuto andare su per le scale, perché 500 persone erano andate su e giù, ho dovuto fare il vigile nelle scale del campanile, del 59. Viene a vedere la partenza del Giro d'Italia adesso? Sì, appunto, sì. Devo venire a vedere anch'io. Tra l'altro, appunto, ho il passo. Ultimissima cosa, un suo saluto ai corridori del Giro d'Italia. È un grande augurio, vedo che c'è uno formidabile e abbiamo anche un nostro friulano altrettanto formidabile, soprattutto nelle volate finali. Auguri a tutti loro, ecco, che possono fare anche questa tappa con serenità e nel bel tempo. Allora, sotto forte insistenza di Michele Pelacci, ci siamo fermati a questo stadio del biathlon. Adesso ce lo spieghi tu chi sei e dove siamo. Ciao a tutti, piacere, io sono Mirko Romanin, e sono un allenatore di biathlon. Non so se avete presente che tipo di disciplina sia il biathlon, sostanzialmente sci di fondo in tecnica di pattinaggio, col tiro con la carabina, combinato col tiro con la carabina 50 metri. E diciamo che in Italia siamo abbastanza bravini e soprattutto qua nella nostra zona, dove c'è questa struttura bellissima che è la Carni Arena, dove io ho la fortuna comunque di viverci vicino, anche il paese qua vicino di Sappada, dove è nata ed è cresciuta Lisa Vitozzi, che è l'attuale campionessa del mondo dell'individuale e detentrice della Coppa del Mondo generale. Allora, ti faccio la domanda che ti fanno tutti, perdonami ma io sono molto ignorante. A chi è che è venuto in mente di fare uno sport in cui abbini gli sci e sparare? Cioè, è un abbinamento che non è proprio naturale, no? Sì, diciamo che è uno sport di origine militare. E vabbè, le prime volte che l'uomo si è mosso con gli sci e ha sparato lo faceva per questioni di sopravvivenza, quindi per caccia, nell'estremo nord Europa, in America, eccetera. E poi per diciamo le prime gare di biathlon sono nate appunto sotto l'aspetto militare, sono state fatte delle gare in Germania nei primi anni del Novecento, addirittura ultimi anni dell'Ottocento. E da lì poi, con il passare del tempo, si è visto che era una disciplina che poteva diventare una cosa spettacolare ed è partita l'evoluzione di quella che è diventata una disciplina, è la disciplina più seguita dal punto di vista televisivo al mondo. E quindi, sì, davanti allo calcio. Sci alpino. Come disciplina invernale. Invernale, sì, okay. Sì. Vedo sotto questo, un po' distratti, bravo, io sono leggero, vedo una maglia rosa. Esatto. Allora, Sappada è un luogo famoso nel ciclismo, forse lo saprai anche, per il tradimento di Sappada, giro del 1987, Roach che ruba la maglia rosa a Visentini. C'è nel biathlon una storia simile, un tradimento clamoroso, spero non si siano sparati, ma almeno un tradimento clamoroso rimasto nella storia? Ma no, tradimenti no, ovviamente ci sono stati dei momenti in cui compagni di squadra, anche nel nostro caso nella Coppa del Mondo del 2019, la Vitozzi e la Virre si sono giocati la Coppa del Mondo fino all'ultima gara, e non si parla di tradimenti, ma ovviamente di una rivalità interna che negli sport individuali è normale che ci sia. E per cui sì, possiamo fare un paragone di questo tipo col golpe di Sappada, assolutamente. C'è un legame tra il ciclismo, si può trovare un legame tra ciclismo e biathlon, e c'è mai stato nella storia un tentativo di ibridare, cioè sostituire gli sci con la bici o viceversa? Allora, tu hai una domanda molto bella. Ci sono stati degli episodi nei primi anni 2000, le prime edizioni dei campionati mondiali estivi. L'International Biathlon Union l'organizzava su mountain bike e tiro con la carabina, e niente, noi come mezzo di allenamento lo utilizziamo molto, la bici, soprattutto in questo periodo quando facciamo grossi volumi di lavoro. Però non lo zoncolan, cioè qualcosa di un po' più facile. Allora adesso mi trovi proprio sul cuore, perché io vivo proprio dove inizia lo zoncolan e penso di essere forse il detentore, sicuramente local legend assoluta, perché mi alleno tante volte sulla salita dello Zoncolan. È una salita durissima, io sono molto allenato, faccio tante gare anche di corse in montagna e mi piace molto andare a farmi male lì quando sono a casa e posso insomma avere il tempo libero per allenarmi, e il mostro, il Kaiser, rimarrà per sempre. E spero che ritorni anche presto, insomma, al Giro d'Italia, perché è una salita bellissima. Ne ho due in realtà. La prima è su il soprannome di Lisa Vitozzi, siete conterranei, anche la conosci benissimo, sei solo allenatore. La Fenice di Sappada, ti piace? Mai questa? Sì, è un bel soprannome, perché comunque fa capire un po' anche quella che è il suo aspetto fisico, che è una ragazza molto molto bella. Ad esempio noi qua la chiamano qua nella zona la Plodar Sniper, no? Che Plodar sarebbero gli abitanti di Sappada, Sniper sapete anche voi che sono quelle persone che sparano molto bene, lei ha una caratteristica che è quella di sparare molto bene e per questo ha avuto dei grossi successi. Quale sarebbe però il paragone, diciamo, fai lo Zoncolan e come devi sparare per renderlo simile al biathlon, non come sforzo, come impegno, come devi sparare, quanti colpi, in piedi o terra, dici tu. Lo Zoncolan è come fare 30 km di biathlon sparando in piedi sui bersagli da terra, che sono più piccoli, quindi è proprio la follia totale. Va bene, direi che probabilmente, oltre che un grande esperto e maestro di biathlon, abbiamo intervistato anche uno dei ciclisti più forti di questo Giro d'Italia, così a occhio. Vabbè, sicuramente non come i pro, però mi difendo. Sullo zonco lancio il 20° tempo io su Strava. Ma hai qualche com nelle vicinanze? Perché sennò Pogacar oggi te li toglie tutti, mi sa. Sì, io c'ho il com dell'ultima salita di Sappada, che oggi me lo leveranno sicuramente. Puoi segnalarlo? Ho parecchi com qua in giro, lo segnalerò sicuramente. Sì, che l'ha fatta in motorino. grazie mille. Grazie a voi. Andiamo a sentire la banda e a vedere la tappa. Grande, grazie mille. No, ci insegni un'altra parola, noi sappiamo solo mandi in friulano, un'altra parola facile che possiamo capire. Oddio, c'hai io di idee, come... Araviodici, arrivederci. Ah, lo puoi ripetere? Araviodici. Araviodici. Sì, vuole dire arrivederci. Aleutieri, friulano doc, ma doc, no, però friulano quantomeno, come si dice arrivederci? Arriviodici. Michele Pelacci, possiamo sentire la tua cosa hai imparato? Arriviodze. No. Ma cioè, anche quando è di fronte a te non riesci a ripeterlo uguale. Vabbè, vabbè, ti perdoniamo perché sei giovane, perché stai studiando. Questi sono gli incontri che abbiamo fatto sulla strada. Come sempre ci sono altri incontri che abbiamo fatto invece in partenza, che riguardano quell'argomento marginale quando non parliamo di campanili, che è il Giro d'Italia, e sono degli incontri con dei corridori che, guarda caso, partecipano al Giro d'Italia. Partecipano e stanno facendo bene in questo Giro d'Italia. Stamattina abbiamo incontrato Davide Piganzoli della Poltico Meta, che è 13° in classifica generale a 22 minuti e 38 secondi di ritardo da Pogacar. E avevamo incontrato i suoi genitori sul Mottolino a Livigno. Ci avevano detto che lui è un ragazzo che ha testa. E infatti abbiamo visto anche nei giorni scorsi, quando era in difficoltà nella tappa di montagna, dove era di un paio di giorni fa. Sì, si era staccato, a 60 km dall'arrivo. Però ha preso un buco in discesa insieme a Rubio e Zana. Però quel giorno, pur rientrando a fatica, non è mai proprio saltato per aria. È vero, ha preso 4 minuti alla fine dagli uomini di classifica, diciamo, da Pogacar, ma ha dimostrato di essere... di avere testa, come dicono testa. I suoi genitori. Quindi sentiremo Davide Piganzoli e subito dopo Giovanni Aleotti della Bora, che è uno dei più brillanti compagni di squadra in questo giro di Dani Martinez, capitano della Bora, secondo in classifica generale a 7.42 da Pogacar. Quindi ecco queste due interviste del mattino. Davide Piganzoli, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiederti, ho letto che tuo papà aveva un distributore di benzina e poi ha aperto un negozio di bici. L'ha aperto quando tu hai cominciato a correre o viceversa, tu hai cominciato a correre perché lui aveva un negozio? No, diciamo che sono avvenuti questi due avvenimenti abbastanza in tempi simili. Alla fine io ho iniziato a correre qualche anno dopo, un paio d'anni dopo mio papà ha aperto il negozio di bici, però non c'è stata una correlazione tra le due cose. E hai un fratello minore, va in bicicletta anche lui? No, lui corre a piedi, però è piccolino, ha 10-11 anni, quindi diciamo che si diverte ancora, non è arrivato ancora alla fase dove lo sport può diventare un lavoro. Invece la tua sorella maggiore fa anche sport? Sì, lei anche lei ogni tanto esce in bici, però lavora in posta, in banca, e quindi diciamo che è più un hobby per lei. Senti, ovviamente in questo giro si è parlato molto di te, di Giulio, siete quasi coetanei, amici anche, e siete anche molto diversi. Abbiamo visto in questo giro le vostre differenze. Lui va più spesso, no? Si lancia un po' di più all'attacco, tu sei molto più regolare. Sì, lui è uno che corre tanto distinto, e questo l'ho apprezzato molto di Giulio. Vi siete parlati in questi ultimi giorni? Sì, siamo grandi amici e quando abbiamo l'opportunità parliamo e scherziamo assieme. Pensi di essere cambiato in qualcosa in questo giro, come ragazzo e come ciclista? No, magari sono cresciuto con la consapevolezza di me stesso, nel senso, probabilmente all'inizio di questo giro non pensavo magari di fare uno top 15 o di essere così vicino ai primi 10, però devo dire che mi sono ricreduto, che magari un giorno potrò fare una classifica buona. Tadej Pogacar, visto da vicino, com'è? Tadej è impressionante. Io mi ricordo ancora quando mi ha passato andare a Livigno, e mi ha passato che è come se io salivo, faccio sempre il paragone anche ai meccanici e ai massaggiatori, gliel'ho detto, è come se io salivo in pullman e lui di fianco con un Ferrari. Era qualcosa di impressionante. però vedo che è così per tutti, quindi complimenti a lui. Grazie Davide, in bocca al lupo per la fine di questo giro e complimenti per quello che hai fatto finora. Grazie mille, ciao. Giovanni Aleotti, buongiorno, come stai? Bene, dai, grazie. Bella giornata di sole, speriamo asciutta. Hai avuto una piccola crisi l'altro giorno. Sì, dai, alla fine sono state le prime due giornate in cui dopo il riposo mi sono sentito così così. Sì, sicuramente arriva il riposo, due notti che abbiamo dormito in quota a Livigno e poi dopo questo calo della temperatura, io preferisco il caldo, però dai, sono fiducioso. Oggi siamo in Friuli. Tu non sei friulano, ma hai una lunga storia d'amore con il Friuli, grazie al Cycling Team Friuli. Per te ha un significato particolare questa terra? Sì, sicuramente ci sono legato, ho passato tante giornate qua, tanti allenamenti e insomma devo tanto a questa regione. Ci saranno più tifosi del solito per te? Ah, speriamo, dai, speriamo di sì. Senti, a proposito dei tifosi, il motivo per cui ti cerco è che sia Martina qui di RCS che il nostro amico Robert Spinazzè ci dicono che i tempi dell'andismo sono finiti, viviamo nei giorni dell'aleottismo. Tu la sapevi questa cosa? Ah, me l'ha detto un po' Martina, è stata, ha lanciato un pochino questa cosa e sì, sicuramente dai, fa piacere. In cosa consiste l'aleottismo? Ma in realtà non lo so bene neanche io, ma diciamo che penso che sia un po', sì, mettersi a disposizione, no, dei compagni e il fatto che i compagni sappiano che possono sempre contare su di me, insomma. Beh, tu hai un compagno che in questo momento sta facendo un giro importante, cosa ci dici su Martinez? Se ti aspettavi che fosse così brillante in classifica e dove arriverà? No, io sicuramente sì, me lo aspettavo e ho un bel rapporto con lui, parla benissimo italiano, quindi insomma è molto facile comunicare tra di noi e penso che sì, in questo giro anche abbiamo costruito un bel rapporto e sinceramente sì, vedendo anche quando nel 2021 ha fatto quinto al giro, pur aiutando Bernal, sicuramente non avevamo nessun dubbio su di lui e si sta confermando ad un livello altissimo. Secondo te ha un valore particolare essere quello che viene definito il primo degli umani, nel senso che Pogacar lo sappiamo che è un extraterrestre e non ce n'è contro di lui. Conta di più quasi arrivare secondo in un Giro d'Italia dietro a Pogacar? Ma io penso che alla fine l'obiettivo di ogni agonista sia sempre quello di vincere, di primeggiare, quindi sì, suona, come hai detto, quasi un po' strano che il secondo posto sia una vittoria e valga come una vittoria, ma sicuramente sì, un podio al Giro d'Italia è importantissimo e sì, faremo il possibile per difenderlo fino alla fine, però penso che dentro l'istinto di ognuno di noi sia sempre quello di vincere, ecco. Però in ogni caso per un podio ci sarà una bella festa in casa Bora. Dai, diciamo che ci aspettano ancora due tappe impegnative, poi dopo la tappa di Roma, quindi non ci sbilanciamo, ma speriamo di continuare così. Va bene, grazie mille, in bocca grazie al lupo e complimenti per il tuo giro. Grazie mille, buona giornata. Quindi domani, ultima tappa, cioè penultima tappa, perché poi ci sarà la passerella finale, però ultima tappa per vedere l'ennesima vittoria di Pogacar, giusto Michele? Possibile? Non so, Pozzo di Cienza Parmense, che non è mai stato in questi luoghi, per cui non ha molto da dire in realtà, ma quella, cioè, non puoi darti da solo del Pozzo di Cienza Parmense. O te lo dà Lautieri. No, non rifacciamola, era buona così, andiamo alla tappa di domani. 183 km da Alpago a Bassano le Grappa con circa 4500 metri di dislivello. Doppia ascesa al Monte Grappa, il versante all'insù è quello di Semonzo, all'ingiù si va verso Romano d'Ezzelino, a metà discesa, questo forse può essere il punto decisivo della tappa, si affronta una contropendenza, circa 1,5 km al 9%. Il mio vincitore è uno che ha già vinto sul Grappa, quando si arrivava appunto in cima, domani si... Vien dalle Ande, na se spande, Nairo Quintana... Bella chiamata, ma no. Ma non era questo che volevi dire? No, perché l'Adriatica Ionica Race 2021 cosa che tu hai visto. Beh, certo, cioè, dominata dal mio ciclista preferito di questo giro, tornato a casa, ma fa niente, andiamo avanti, vai, vai, vai col tuo pronostico. Renzo Fortunato. Ah, come direbbe Michele Pelacci, bella telefonata questa. Sì, è bella, no, devo ancora riprendermi, no, per dire un corridore diverso da Tadej Pogacar come vincitore della tappa di domani, altro che doppio grappa, doppia o tripla grappa servirebbe per inventare, speriamo, per trovare un nome. Ne dico uno tra gli altri, già fatto prima quando abbiamo parlato di Aleotti, Dani Martinez, per me è l'unico che in salita potrebbe in qualche scenario assurdo vincere al posto di Pogacar. Va bene, sentiamo cosa dice il nostro esperto locale Alessandro Autieri. Allora, io mi aspetto, anzi io sogno, immagino un mondo ipotetico dove domani Pogacar non vuole vincere, quindi domani... Non vuole nemmeno. Sì, sì, non vuole, non gli va. Ok. E quindi mi immagino in fuga sempre gli stessi, cioè tipo quelli che abbiamo visto oggi, però con loro anche Pellizzari e Conci, e alla fine la tappa la vince Giulio Pellizzari. Bella telefonata anche questa. Io l'ho cantato prima di quel Quintana, dai, sogniamo per un momento che possa succedere. Tanto vince Pogacar, lo sappiamo già, per cui questo giro di pronostici è un giro di pronostici così, di un pourparler, un léger son fait. Sì, è un riempitivo, siccome le nostre puntate sono sempre molto corte, questa in particolare. Ci prendiamo del tempo ulteriore per allungarle. Direi allunghiamola che però, ancora un attimo, ringraziando quelli che ci hanno portato delle cornucopie quest'oggi. Oggi... Dopo i campanili, lo scopo principale di questo podcast, per cui ringraziamo Francesco per un inseguimento a tappe incredibile, che ieri è andato a trovare... Esteban Chavez nell'hotel, ci ha mandato le foto di Chavez che gli ha fatto l'autografo e le foto con suo figlio. È stato un momento, insomma, molto bello, è stato piacevole vedere questa gioia. Ci ha portato una cornucopia strepitosa, così come strepitosa è stata la cornucopia che ci ha portato Romina Venier questa mattina alla partenza. E persino Alessandro Autieri, col suo baffo ormai arrizzato, ci ha promesso, ancora non l'abbiamo vista, però ringraziamo tutti quanti. Sta gubana, i nostri... forza, dall'inizio della puntata che la sto aspettando, è arrivato il momento. In realtà non so se c'è ancora la gubana, perché in macchina fine ha fatto? In macchina da stamattina, quindi... Evapora la gubana, che succede alla gubana? Sì. Può darsi. Allora andiamo a verificare tutto questo nell'attesa, se volete ci sono tutti i social di Al Vento, di Bidon, il canale il gruppo Telegram, dove insomma potete farci sapere che ne pensate di questo nostro il gruppo viaggio. Telegram di Bidon, quello di Al Vento, gestito con grande imperio da Alessandro Autieri, che si dedica anche ogni mattina. Ma quante cose fa? Tra un quarto d'ora finiamo questa registrazione e va a mandare la newsletter che praticamente esce alle 3 di notte. Newsletter che oggi non ho ancora fatto, quindi domani uscirà magari un peletto più tardi. Perdonato, assolutamente. Perdonateci se oggi ci siamo dilungati più del solito, ma avevamo tante cose belle, speriamo, da dirvi. Ci vediamo domani o ci sentiamo domani da Bassano del Grappa. Il saluto in friulano non possiamo che lasciarlo al nostro Alessandro Autieri. Arrivi Odisi dal Friul. Ciao.